Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno da Deborah Rosciani, bentornati a Salva Danaio, ci risentiamo in diretta per l'ultima giornata prima di Natale, poi risaremo di nuovo in diretta con voi a partire dal lunedì 28 dicembre, quindi non mancheremo il nostro appuntamento, domani saremo in onda con un meglio delle nostre più recenti trasmissioni. Allora, di cosa ci occupiamo oggi? Ancora di tematiche che in qualche maniera il Natale lo sfiorano, perché quello di quest'anno è probabilmente un Natale che si può definire il Natale delle vendite online. Quest'anno a fare la differenza è proprio il web, perché stanno risultando davvero in forte aumento gli italiani che hanno deciso di fare shopping e anche di fare i regali di Natale utilizzando il computer direttamente da casa. C'è una ricerca di Deloitte, una grande società di consulenza, una ricerca sui consumi di Natale condotta in 18 paesi europei che qualche settimana fa indicava che il 28% degli italiani avrebbe navigato su internet per comparare i prezzi, il 16% per cercare e selezionare prodotti, l'11% per individuare punti vendita e poi appena il 14% per effettuare direttamente l'acquisto online. E comunque è una percentuale che in ogni caso di anno in anno è in forte crescita, anche se è un mercato che potrebbe potenzialmente ancora crescere molto. I prodotti più cliccati e venduti sono nel settore dell'abbigliamento, dei prodotti high tech, ma vanno alla grandissima anche libri, DVD. E allora vi chiedo oggi, e quindi aiutatemi anche a condurre questa trasmissione come sempre vi invito a fare, avete trovato sul web il regalo di Natale per familiari e amici o magari un regalo per voi stessi? Ci sono delle occasioni convenienti oppure la ricerca sul web è spinta da qualche altro aspetto? Oppure, al contrario, perché ovviamente ci sono anche questi consumatori, non vi fidate proprio e continuate a scegliere appunto il negozio di fiducia, il negozio tradizionale, il grande centro commerciale per i vostri acquisti. Vi siete avvicinati per nulla quest'anno proprio allo strumento telematico per fare il vostro acquisto, al cosiddetto e-commerce? Raccontatecelo all'800240024 e scriveteci se volete alle 349-238-6666, perché tutte le vostre considerazioni oggi le metteremo a confronto con i commenti intanto di Roberto Liscia, presidente di Netcom, che è il consorzio del commercio elettronico italiano, quindi tutte le aziende del settore radunate sotto questo grande cappello. Presidente Liscia, buongiorno e benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. E poi abbiamo con noi stamattina anche Mauro Zerbini, amministratore delegato di IBS Internet Bookshop, che è il più popolare sito italiano per la vendita via internet di libri, video e DVD. Zerbini, buongiorno anche a lei. Buongiorno a tutti. Allora, io vi ho ricordato tutti i numeri per poterci chiamare, intervenire in diretta. Adesso andiamo agli altri numeri, a quelli della borsa. Borsa che è molto positiva e ormai, insomma, tutti gli operatori, gli investitori sono d'accordo nel giudicare queste ultime giornate di contrattazioni come giornate che sono un vero e proprio rally di Natale. Ce lo aspettavamo, qualcuno era un po' più scettico, invece a quanto pare sta arrivando, complici anche alcuni dati economici americani che sono apparsi piuttosto incoraggianti nelle ultime ore, come il dato sulle vendite di case esistenti che è stato comunicato ieri in novembre, un mercato in forte ripresa, e dunque su questa indicazione ieri Wall Street ha chiuso bene e l'Europa oggi sta andando pure piuttosto bene. Adesso si viaggia leggermente al di sotto dei massimi di seduta toccati in mattinata, ma vedo un quadro piuttosto roseo ovunque. Guida Londra in questo momento, più 0,84%, sulla City Parigi più 0,62%, Francoforte più 0,42%, Milano più 0,77%, per una frazione stamattina Milano ha guadagnato anche oltre un punto percentuale. Stamattina sul FTSE MIB a Milano, a svettare per gran parte della seduta, ci sono ancora fra i migliori, non sono i migliori in assoluto in questo momento, tutti i titoli della galassia Fininvest, della galassia Berlusconi, della famiglia Berlusconi, perché ieri la finanziaria della famiglia, appunto del Premier, ha formalizzato un accordo con l'altro gruppo editoriale CIR per la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado che la obbligava a pagare un risarcimento da 750 milioni per il lodo Mondadori. Allora, su questo Mediaset peraltro continua ad essere premiata anche dagli investitori e dagli analisti, dalle case d'affari, per anche la recente aggregazione stabilita, appunto, e guidata in Spagna fra Telecinque e 4, e Mediaset stamattina ancora più 1,75%, Mondadori più 1,65%, Mediobanca più 1,58%, tanto per indicarvi tutti i titoli con la M, c'è Mediolanum tra i migliori, più 2,56%. Per la verità vanno molto bene stamattina tutti i titoli del settore assicurativo,

cioè si utilizza internet non soltanto per acquistare ma anche per provare il prodotto prima di trattenerlo. Il tema del costo della spedizione è ovviamente, questo si può fare quando si fa una valutazione della convenienza, come diceva l'ascoltatore, certo, che il prodotto debba avere un certo valore. Noi peraltro abbiamo fatto un sigillo che si chiama sigillo Netcom, che obbliga tutti i soci ad esporre questo marchio sul proprio sito e garantisce il cliente che quando ha acquistato da un socio di Netcom, il socio di Netcom si obbliga a garantire gli obblighi di restituzione. Perfetto. Quindi non è soltanto un fatto di legge, ma un fatto anche di obbligo morale da parte del socio di Quindi Netcom. Quando scegliamo il negozio online, magari verifichiamo che abbia anche apposto questo sigillo, questa certificazione del consorzio, perché sicuramente ci tutela ancora di più. Volevo sentire Antonio da Genova, che ha fatto un acquisto fresco, un iPod. Antonio? Pronto? Sì, ci siamo, sì. Buongiorno. Buongiorno, tanti auguri, buon Natale. Altrettanto. Sì, ho fatto un acquisto fresco in Inghilterra di un iPod e con mia sorpresa ho risparmiato 50 euro fondamentalmente rispetto al prezzo che si trova qua in Italia. Quindi ed è arrivato. Comprese, diciamo, le spese di spedizione, Antonio, lei ci mette tutto dentro. Certo. Io ci metto dentro tutto, prodotto finito, pagato con carta di credito senza nessun tipo di problema. Ed è arrivato tutto assolutamente perfetto, mm-hmm, e quindi la soddisfazione massima, logicamente. Sì, ma insomma adesso voglio dire, chiaramente noi dobbiamo un po' fare dico l'uccello del malaugurio a Salvadanaio, ma ovviamente sollevare anche i problemi per poter avere gli strumenti poi per tutelarci e difenderci, ma è chiaro che è comunque mediamente, come dire, un canale che funziona anche piuttosto bene, soprattutto gli accanitissimi e tutti quelli che sono i milioni di clienti, per esempio di IBS, lo sanno sicuramente bene, altrimenti questo fenomeno non avrebbe questi numeri. Volevo sentire l'ultima telefonata di Andrea da Milano per poi concludere con Zerbini e Liscia. Andrea, rapidissimo, la ringrazio. Sì, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, solo per dire, noi abbiamo un negozio e online, vendiamo su eBay e quest'anno abbiamo registrato un incremento nel mese di dicembre del 50% rispetto all'anno precedente. E questo è estremamente positivo. Vendiamo fondamentalmente elettronica, informatica, cellulare, quindi telefonia, ma c'è anche l'abbigliamento. Per sorridere, questa mattina abbiamo ricevuto moltissimi contatti, telefonate, mail in cui ci chiedevano garanzia di consegna entro domani, si facevano l'ordine. Ecco qua, oggi, insomma, quindi... voi avete risposto, per i miracoli non siamo attrezzati? Esatto. No, noi garantiamo i tempi di spedizione, ma in questo periodo non siamo in grado di garantire i tempi di consegna, quindi possiamo garantire la consegna, cioè la spedizione odierna, poi purtroppo l'arrivo è un altro paio di maniche. Andrea, grazie per la sua testimonianza e buon lavoro. Era un po' la scosa anche che mi aveva raccontato Zerbini. Adesso va bene tutto, ma pure noi come consumatori qualche volta quante ne vogliamo, ragazzi, le ordiniamo oggi per avere l'articolo domani e consegnarlo il giorno di Natale. Zerbini, quante ve ne sentite richiedere di cose strane anche da parte nostra, IBS? Ma in questi casi si dice che il cliente ha sempre ragione. L'autoconvincimento su questo? No, ma io credo che a parte questa, che non è solo una battuta, sia molto importante l'informazione da parte del negozio. Guardi, noi abbiamo 100.000 prodotti disponibili nel nostro magazzino che subito possono essere spediti, però avendo presente le difficoltà che hanno i corrieri con la neve in questi giorni, noi già da ieri tutti i prodotti che abbiamo in magazzino già abbiamo scritto sul sito, ci dispiace, questi prodotti non potranno essere vorrei ben vedere. Oltre, mettiamoci pure la neve in queste ore. Ecco. Molti ordini in meno sicuramente per questo, ma abbiamo fatto una lo cosa so, seria. Però si fa anche una scelta di qualità qualche volta del servizio che si vuole dare alla propria clientela. Zerbini, grazie per essere stato con noi, buon Natale. Prego, buon Natale. Grazie anche a lei, Presidente Liscia, buon Natale, ci risentiamo più avanti perché ovviamente c'è Presidente Liscia. Grazie a voi, sì. Arrivederci, buon Natale ovviamente. Buon Natale a tutti voi. E molti ascoltatori mi scrivono, vabbè, ma non potete sfruttare i commercianti per provare e decidere poi acquistare online. Ha ragione, ho fatto un esempio, ma vabbè, ma tanto lo sappiamo che funziona anche così, che qualcuno lo fa. Abbiate un po' più di tolleranza con noi. Intanto buon Natale a tutti, noi ci risentiamo lunedì prossimo. Da Deborah Rosciani, buona giornata.